in primo piano. Buongiorno, eccomi Dino Pesole per la rassegna stampa. Dicevamo poco fa con Alessandro Milan che quest'oggi abbiamo sui giornali un caso interessante. Spesso si tende a dire che nelle aperture i giornali tendono in qualche modo a scegliere gli stessi argomenti. Oggi nelle prime pagine dei giornali troviamo gli stessi argomenti, ovviamente, ma distribuiti diversamente. Questo è un caso interessante. Ad esempio, il Corriere della Sera sceglie di aprire il giornale con le polemiche che sono nate ieri in seguito alla decisione di cancellare la prova generale delle nostre frecce tricolori a Tripoli. Come sapete, lo abbiamo ricordato anche ieri, sono in corso in Libia le celebrazioni per i 40 anni dell'avvento al potere di Muammar Gheddafi, cerimonia alle quali ha preso parte il nostro presidente del Consiglio. Allora, la polemica nascerebbe, perché anche a questo riguardo occorrerebbe vedere se in effetti è proprio questo l'argomento o il pretesto vero, dal fatto che Tripoli avrebbe chiesto alle nostre frecce tricolori di utilizzare solo il fumo verde. Il verde è il colore che richiama appunto la rivoluzione verde di Gheddafi. E ovviamente i nostri hanno detto no, ma noi, insomma, i nostri colori sono le frecce tricolori, appunto. E dunque su questo si sta montando una polemica, probabilmente dovuta per gran parte a motivi tecnici. Oggi ne sapremo di più. Poi l'altro argomento che troviamo in evidenza sul Corriere della Sera, ma anche su altri giornali, riguarda nuovamente un nuovo, il passaggio successivo rispetto a quello che abbiamo appreso nei giorni scorsi, del caso del direttore dell'Avvenire Dino Boffo, che è stato oggetto, come sappiamo, ed è, continua a essere oggetto di una polemica, dura polemica politica, e non solo, anche di un duro confronto c'è stato nei giorni scorsi anche con le gerarchie vaticane, dopo le rivelazioni del giornale su una presunta informativa a carico di Boffo, con tanto di risvolti relativi alla sua vita privata e alle sue inclinazioni sessuali. Il Corriere della Sera ci ricorda a centropagina che il giudice di Terni afferma che nel fascicolo, appunto, in cui dovrebbero essere contenute queste informative, non ci sono note sulle inclinazioni sessuali del direttore dell'Avvenire. Il titolo è Tettamanzi in difesa di Boffo. Il Vaticano ricorda il suo sostegno, polemiche tra i poli. E questa è l'apertura, l'argomento che sceglie Repubblica per la sua apertura di oggi. A Boffo la solidarietà del Papa. Voci di dimissioni del direttore dell'Avvenire, poi il Vaticano interviene. Il direttore dell'Avvenire oggi spiega la sua verità. Rutelli discute il caso con De Gennaro. Un commento in prima pagina di Giuseppe D'Avanzo che si intitola L'officina dei veleni. Dunque, la nota informativa pubblicata dal giornale non è una nota né un'informativa, ma una velina, sostiene D'Avanzo. L'altro argomento importante riguarda l'economia, lo troveremo ovviamente anche riportato dagli altri giornali, e riguarda il ritorno, seppur diciamo modesto, dell'inflazione in agosto. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4% rispetto a luglio ed è lo 0,2% annuo, mentre ed è un'indicazione in controtendenza, perché l'inflazione in Europa invece segna una nuova flessione, restando sotto zero. Cosa differenzia l'Italia dagli altri paesi? Probabilmente il fatto che abbiamo accusato, forse un po' più degli altri, dell'effetto del rincaro dei carburanti. Leggo appunto che il ministro Scajola tende ad attribuire a questo dato, come dire, un segnale positivo, nel senso che ripartono i consumi e questo potrebbe essere un elemento di fiducia sulla ripresa. In realtà probabilmente questo avvio di inflazione, leggero accenno di avvio di inflazione, molto probabilmente si deve quasi esclusivamente all'aumento del prezzo del greggio e quindi dei carburanti. Sull'economia segnalo un commento di Tito Boeri, appunto nella prima pagina di Repubblica, che in qualche modo riecheggia anche un commento di Pietro Garibaldi sulla Stampa. La tesi, ve la sintetizzo, di Boeri è strano leggere in questi giorni proclami su una imminente fine della crisi quando i tassi di disoccupazione in giro per il mondo raggiungono nuovi picchi. E Boeri si chiede che fine abbia fatto la politica di bilancio, e cioè la legge finanziaria che normalmente accompagna o accompagnava, dopo la decisione che il ministro Tremonti ha assunto lo scorso anno di anticipare la finanziaria a luglio, accompagnava, come ricordiamo, il nostro rientro dalle vacanze. Pietro Garibaldi, sulla prima pagina della Stampa, dice: da almeno 20 anni la ripresa della vita economica e politica dopo la pausa estiva è stata dominata dalla discussione collegata alla finanziaria. Dal silenzio di fine estate su questi temi sembra quasi che la finanziaria del 2010 non si debba proprio fare. Probabilmente la risposta a questo interrogativo è che anche quest'anno il governo in parte ha deciso di anticipare alcuni punti essenziali della propria strategia di politica economica attraverso il decreto anticrisi che è stato approvato prima dell'estate. Comunque poi ci sono partite importanti che la finanziaria dovrà affrontare, ad esempio il rinnovo, gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Dunque è la finanziaria che dovrà far fronte a questo. Comunque la Stampa apre sull'influenza, la nuova influenza, e dà conto appunto del vertice che c'è stato ieri a Palazzo Chigi, in cui si è deciso che non ci saranno rinvii nell'apertura delle scuole. Influenza A, c'è il piano, ma è scontro sul vaccino. Il ministero, saremo pronti. A questo riguardo ricordiamo che anche altri giornali, come vedremo tra poco, scelgono di approfondire questo tema. Arrivo al Sole 24 Ore, che apre, diversamente dagli altri giornali, apre sul tema legato alla possibile detassazione, o comunque ai possibili sgravi alla partecipazione degli utili d'impresa dei lavoratori, tema che è stato rilanciato nei giorni scorsi dal ministro Sacconi e che oggi troviamo ripreso in due interviste che comprendono e vengono sintetizzate nel titolo di prima pagina, Sconti fiscali sugli utili, ed è un'intervista al ministro della funzione pubblica e l'innovazione Renato Brunetta e al vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei. Le aziende che si riorganizzano in forme partecipative devono fruire di incentivi fiscali. Questa è la convinzione del ministro Brunetta, che considera la detassazione del 10%, che è già possibile, lo ricordiamo, per i contratti aziendali, una base di partenza in direzione di un'adesione dei lavoratori agli utili delle imprese. Un tema sul quale il vicepresidente di Confindustria Bombassei si dichiara pronto al confronto, anche se sottolinea la necessità di procedere con cautela sulle forme di partecipazione suggerite dal testo elaborato da Pietro Ichino. Pietro Ichino è un senatore del Partito Democratico che su questo tema ha presentato nei giorni scorsi una proposta di legge in Senato che ora potrebbe, appunto, in seguito all'accelerazione di questo tema, potrebbe avere uno sviluppo più celere. Ed è appunto in discussione al Senato, come ricorda un articolo in pagina 6, sempre nelle pagine interne del Sole 24 Ore: Senato verso il voto, ipotesi stralcio sugli incentivi fiscali, e quindi probabilmente ci sarà una accelerazione su questo argomento. Il Messaggero apre sul piano del governo, sul virus A, così come abbiamo visto ha fatto la Stampa. Con l'informazione relativa al fatto che le scuole apriranno regolarmente, per ora non c'è alcun motivo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico. C'è un interessante articolo sul Messaggero in prima pagina, ma ve ne darò conto tra pochissimo. Ora una breve pausa per le informazioni per chi viaggia. In primo piano. Eccoci di nuovo con la rassegna stampa, Dino Pesole per voi. Vi sto illustrando le principali notizie che appaiono oggi sui giornali e poco prima dell'interruzione vi dicevo di un interessante articolo sul Messaggero, la prima pagina, che non riguarda i temi di cui abbiamo parlato finora, ma ci informa sul fatto che da oggi si spegne la vecchia lampadina. Cioè, da oggi c'è lo stop alla produzione di quelle a incandescenza. Le vecchie lampadine vanno in pensione. E questa è una decisione che segue un provvedimento assunto in sede comunitaria. Da oggi, come stabilito dall'Unione Europea, non verranno più prodotte le lampadine a incandescenza. Saranno ancora in vendita fino a esaurimento, scorte e comunque non oltre il settembre del 2012. Al loro posto, già compaiono ampiamente nelle nostre case, ci saranno lampadine alogene e fluorescenti. Secondo le stime, le nuove lampadine permetteranno una riduzione annua di 15 milioni di tonnellate di emissione di CO2 e un risparmio energetico di 40 miliardi di kilowattore. Ogni famiglia, dice il Messaggero, potrà spendere ogni anno tra i 25 e i 50 euro in meno in bolletta. Bene, vediamo. Cosa potremo risparmiare con l'arrivo ormai definitivo delle nuove lampadine? C'è un'altra notizia interessante che riguarda appunto la vita di tutti i giorni di tutti noi, che traggo da Libero, dalla pagina 13 di Libero. Ci informa Libero che da oggi arriva la tassa sui vecchi ascensori. Vi sintetizzo la questione, anche qui in seguito a una direttiva europea, anche l'Italia deve adeguarsi per i sistemi di sicurezza necessari sugli ascensori almeno ai criteri standard che assicurino appunto sicurezza. Per fare questo però occorre riammodernare anche i vecchi impianti. E secondo i calcoli appunto di Libero, in realtà, alla fine, la spesa di questa operazione ricadrà sostanzialmente in prevalenza sui condomini, che, scrive Libero, in piena crisi si vedranno piombare sul groppo una bella tassa aggiuntiva. Bene, insomma, ora vedremo se sarà effettivamente così. Il giornale che ha avviato nei giorni scorsi proprio questa lunga polemica sul caso Boffo, ovviamente mantiene l'argomento in prima pagina. I vescovi sapevano tutto da tempo, colpo di scena nel caso Boffo. I prelati, scrive il giornale, avevano copia della sentenza di condanna del direttore di Avvenire, ma hanno fatto finta di nulla. Adesso che è scoppiato lo scandalo emergono i primi contrasti nella CEI e qualche monsignore chiede le dimissioni. E è molto rilevante a questo riguardo un colloquio, un'intervista che il giornale pone in grande evidenza in prima pagina con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La prima domanda ovviamente è su questo caso, ma Berlusconi sull'argomento glissa. A proposito di questa vicenda, ho già detto tutto quello che dovevo dire e davvero non vorrei aggiungere altro. Invece Berlusconi si sofferma sui prossimi appuntamenti del governo. Giovedì, primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, da dove si ricomincia? Dal piano per le 100 città nei capoluoghi di provincia, annuncia Berlusconi, che quindi almeno in questa intervista pare adottare su questa vicenda una linea più defilata e dunque preferisce concentrarsi sui temi che più rilevanti che riguardano il nostro paese, la ripresa, l'economia. L'inflazione, anche il giornale ricorda, riprende a salire e dice per fortuna, anche in questo caso ricordiamo. C'è il problema di come valutare questo modesto avvio di fiammata inflattiva, che però appunto è in assoluta controtendenza. È interessante, ritorno solo per un istante a questa vicenda del direttore dell'Avvenire, proprio per segnalare che l'Avvenire medesimo appunto ha scelto di riportare queste polemiche in modo, diciamo, sostanzialmente defilato nella prima pagina del giornale. Solo a fondo pagina si riporta la notizia che dal GIP di Terni è arrivata la smentita al giornale. Quindi è una scelta anche di strategia dell'Avvenire di non replicare con titoli forti alle polemiche di questi giorni. Il mattino di Napoli apre con l'attenzione Italia-UE sugli immigrati, polemica sui clandestini rinviati a Tripoli, colf e badanti, da oggi la sanatoria via web. Bruxelles chiede spiegazioni sul gommone, e questa è la polemica che ha accompagnato anche, diciamo, gli altri respingimenti dei clandestini. C'è un chiarimento in corso con l'Unione Europea, vediamo come andrà a finire. Dal foglio segnalo, e così ritorniamo anche a uno degli altri argomenti di politica estera che abbiamo segnalato nella rassegna stampa di ieri, ma che troviamo anche oggi in evidenza nei giornali, cioè l'affermazione clamorosa, storica, è stata definita da molti, del Partito Democratico dopo 50 anni, 54 anni, alle elezioni del Giappone. Bene, in prima pagina il foglio ci ricorda però che ora certamente ci sono state anche le congratulazioni di Obama, anche se il foglio dice a denti stretti, perché Washington adesso teme l'asse tra il giapponese Aoyama e Pechino. Però appunto il foglio ci ricorda che ora c'è il problema di dover affrontare le gravi emergenze mondiali, in primo luogo la recessione globale, e il titolo è Tokyo in deficit, il regime dei democratici giapponesi si scontra con i numeri e lo scetticismo di molti esperti. E sappiamo che il Giappone è uno dei paesi più indebitati al mondo, ha un debito pubblico che è addirittura superiore a quello italiano. Brevemente segnalo altre aperture da altri giornali. Il Manifesto apre con una grande foto, come uso del giornale quotidiano comunista, con un gommone dei disperati che tentano di queste 75 persone a bordo dell'ennesimo gommone respinto in Libia. Ci ricorda l'ONU condanna l'Italia e l'Unione Europea difende il principio di non respingimento. Quindi questo è un argomento ovviamente che troveremo sui giornali anche nei giorni prossimi. Anche Liberazione apre con una foto con un gommone con un numero indescrivibile di somali. Chi sono i barbari? Si chiede Liberazione. Abbiamo l'unità poi che ritorna nella prima pagina del suo giornale su questa polemica relativa al direttore dell'Avvenire. Il titolo è La fabbrica dei dossier, e qui appunto si dà conto dello scontro che sta avvenendo tra veline e servizi, tra vere e presunte informative, e anche questo argomento un tormentone del nostro rientro appunto al lavoro dopo le vacanze estive. Bene, per oggi concludo con questa informazione. Ci risentiamo domani mattina per una nuova puntata della nostra rassegna stampa. Ora do la linea di nuovo a 24 Mattino con Alessandro Milan. Grazie a tutti da Dino Pesole.